socca schnurre. Alle Leber, la rapuzza, noi stasne semo cotidaps. O tu urzi, nam rosi, ab mundi, so, get ne poti rum, cotidaps. O tu rum, affegotano, nudo, so, subzi, non ob, semo cotidaps. Di denario assenti, ma tanto non rinneghi neanche un pasto. Viziato come il conte di Cagliostro, nel chiosco del gelato che si è sciolto. Si vendono bon ton con antipasto, per primo pasto al pesto. Rimando di seconda, se tu sei retromarcia, io mi mangio uova marce. Merci che ringraziano lo stesso, nemmeno più il mio cane vuole l'osso. Preferisce il cane di un fucile a cane mosso. Un masochista in ombra mi rispose che la vita è questo ed altro. Io l'altro l'ho già avuto ed ora questo non mi basta. Per questo sono triplo più contorto di un quadrato con sei lati in un triangolo scaleno. Un giorno sono siero, il giorno dopo son veleno. Altaleno tra rimorsi, tra gli abbracci senza braccia. Tra partite d'amicizia che son vinte, ma da un terzo che bisticcia. Io che mi racimolo le offerte e tu che non subisci neanche un graffio. Sei soffio che non smuove neanche polvere. Sei cenere sul cenere, sei venere con le lenti a contatto. Non vedi che nel piatto il tuo contratto dice ogni lasciato è perso. Non sfrutti ma soffriggi le patate rivangando un fritto misto. Io onesto che accettavo quel tuo rito ed ora ti ho rivisto, ma dentro a chi l'ha visto? Sparito come il suono disgustoso di un neonato che fa un rutto. Sparito come un rito a Pentecoste in un paese ormai distrutto. Sparito come sensazione sopra la tua pelle per un cieco senza tatto. Sparito come bimbo che spaurito si è sperduto dentro un bosco. Sparito come suono di uno sparo in un deserto. Sparito come un orologio a muro non venduto a fine asta. Sparito, punto e basta. Sain, if I do need more room, much dollar on a dirap, so present, and raps, and we don't know, a dirap, so summer, and the two raps, as a dirap, second me, memo, but dirap, but that's the cashmere, a lap, but I was an oyster, and semo, but dirap, but turks in a mozia, and the socket, and the party room, but dirap, but turro, a fitano, and you do so subsidy, no, semo, but dirap, a sabre, see, but he's perfect, but see, we're tired, but dirap, you go back to the second semi, but see, but dirap, but like Navileta, but the dirap, but some turks, but strip, but a shalino, she do tart, no, but type, plenic demon, but that, no, cat, nele, look at the nevia, see, and the nation, and the nation, Lo pitnane vom sonne coi fossis, vi fare noi cane scibus non e cutte, e tre foi lo nomi scere mi coi. Oi, sape, o stizzi, mi costrae, mo da matni, mo se castrici, ma da di tra parte. O stara, brasna, se stara, beira, di stromi, rardoni, retta, o nele, mo so qua don rosgno rei, sono son rosgno, o nele, axo lo gnair, non di tale, se no godarda, muido trot, no qui colpire, non lo so seupe. A sape, mo lo seupe, ro de tu, vas dolor tlalui, ortlade, seupe, a divele, che so psiri, mermoni, e sigo sambu. Ali shuf mi denai crescire fino col sole lo menai con lui con me lo senso non stare in gira che stream e strama vo vo snavi poi fa strama te resultes a no che se dormambi o se plaza pa mi pe po sapi na no no bolo ne bis o cloche se cosa le do soi che le corzo ia che de no le mo cota sti o sa mo che ne de gen di ronno na da mit ne et so ila ne di